Civiltà. La lirica. Il melodramma. A. Ascolta il testo. Nell'Ottocento nasce un genere artistico nuovo che unisce il teatro alla musica e al canto, il melodramma. Il termine stesso indica che il dramma, cioè l'azione teatrale, si realizza attraverso la melodia, cioè il canto e la musica. Le origini del melodramma risalgono alla tradizione musicale della fine del Cinquecento e del Seicento. Claudio Monteverdi, 1567-1643, segna l'importante passaggio dall'opera sacra a quella profana, dalla musica rinascimentale a quella barocca. Monteverdi era compositore, violinista e anche cantante. Le caratteristiche del melodramma sono quattro. 1. Le opere sono tutte cantate e così non c'è più la prosa recitata. 2. I temi non sono mai di carattere fiabesco o fantastico, ma piuttosto realistici. 3. Le opere rappresentano lo scontro fra le passioni e le vicende umane ed affettive. 4. Nasce un profondo rapporto tra il pubblico e i personaggi, tanto che il pubblico si immedesima nei sentimenti e nelle vicende dei personaggi.